Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Radio Sera del martedì, 9 minuti dopo le 21. Ben ritrovati su Blu Radio Veneto, in regia c'è Sergio Bortolami, dall'altra parte del vetro, come si usa dire, c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Sergio, buonasera ai nostri ascoltatori. La seconda parte del nostro, della nostra chiacchierata con Claudio Rocchi, a distanza di un mesetto circa dal primo appuntamento, abbiamo questo secondo insieme a Claudio. Claudio, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera a voi, buonasera a Claudio. Amici che ascoltano, e l'amica anche. dove eravamo rimasti, Claudio? Dunque, qualche settimana fa, forse mesi, quando era il 23 agosto? Sì, all'incirca. Esatto. All'incirca, grazie agli amici di Buona Diventa, abbiamo fatto una chiacchierata che voleva così coprire un po' la storia della mia musica, della mia vita in qualche misura, perché poi la musica ha accompagnato la vita e la vita accompagna la musica continuamente. E arte anche. Esatto, arte e deliri vari, per cui io ho cominciato molto presto a fare musica, come in televisione si fa riassunto delle puntate precedenti. Per chi non avesse ascoltato, iniziato nel 1968 anzi a fare il ragazzetto bassista per un gruppo milanese che si chiamava Stormy Six. Nel 69 ho fatto il mio primo album solista, si chiamava Viaggio. Nel 70, poi uscito nel 71, Volo Magico, che è stato un po' il lavoro più storicizzato fra quelli che ho fatto, che bontà loro, alcuni nella critica musicale italiana l'hanno erroneamente collocato nel filone del progressive italiano. In realtà alcuni più precisamente l'hanno definito l'unico, praticamente quasi irripetuto esperimento di musica psichedelica italiana. Ecco, mi ci sento molto meglio dentro, perché quello era il clima, quella era l'atmosfera, quelli erano i riferimenti culturali, assolutamente. Per cui questo era Volo Magico. Volo Magico nel 72 è diventato La Norma del Cielo, Volo Magico numero 2, con le sessions di quello che doveva essere il secondo disco della stessa uscita nel 73. E siamo arrivati qua. E siamo arrivati lì. Siamo arrivati qua. E siamo ancora long way out from. Una mia curiosità personale, Claudio. Un secondo, solo un flash sugli Stormy Six. La cover di Creedence, c'eri anche te nella cover di Creedence oppure no? Se intendi dire sì, anzi io di Creedence credo di aver parlato l'altra volta, sono stato benedetto da John Fogerty perché, essendo un giovane autore della scuderia editoriale Ariston Records, fu incaricato di tradurre in italiano tutte le canzoni pubblicate in Italia dei Creedence Clearwater Revival, come un altro mio collega ben più fortunato di me, tale Felice Piccaredda, fu incaricato dalla EMI di tradurre le canzoni dei Beatles. Esatto. Per cui tutte le copie vendute in inglese o in americano nel caso dei Creedence in Italia davano comunque una royalty all'autore della versione italiana, che ero io nel caso dei Creedence, ed ero anche bassista. Sì. Benissimo, quello è una mia curiosità personale. Benissimo, fugata. Passiamo ad Essenza. Com'è nato Essenza? Musicalmente un album che doveva essere una continuazione di Volo Magico numero 2, poi però com'è stato? Nella puntata precedente abbiamo parlato. Sì, abbiamo parlato un po', ma adesso la sviluppiamo, dai. Vabbè, ok. Allora, brevemente quello che è già stato detto, è nato, sì, dici bene, doveva essere il seguito di Volo Magico 1 e poi di Volo Magico 2, quindi teoricamente avrebbe dovuto essere il disco fatto con gli stessi musicisti, lo stesso gruppo che aveva caratterizzato le due produzioni precedenti. Poi invece all'ultimo minuto, per una serie di circostanze di carattere umano-sindacale, il gruppo si rifiutò di venire in studio a meno che non si fosse firmato il progetto con il nome di un gruppo, Volo Magico, piuttosto che di un solista, Claudio Rocchi. Ora io, che ero quello che aveva scritto le canzoni, e certo avevo usufruito come sempre dei contributi degli amici musicisti, ma non al punto di dover disconoscere i miei pezzi, insomma il mio linguaggio, la mia espressione, per quanto sorpreso, proprio la sera, un paio d'ore prima di vederci per la prima session di registrazione, disse: ok, fantastico, m'arrangio per conto mio. Da quello nacque a sorpresa un'avventura imprevista e imprevedibile, perché mi ricordo telefonai da un telefono pubblico, non esistevano i cellulari allora, al mio amico Nino De Martino, ex chitarrista dei Giganti di storica memoria nel beat italiano anni 60. Tema: cosa pensi dell'amor? Penso che l'amore, oppure mettete dei fuori dei vostri cannoni, dei fiori nei vostri cannoni, e maledirò una ragazza in due. Quelli lì erano i Giganti, Mino era il chitarrista dei Giganti ed era diventato nel frattempo un mio ottimo amico, quindi chiamando lui, che era appunto un punto di riferimento perché è un bravissimo musicista, e gli raccontai la vicenda: guarda, sono rimasto senza gruppo a due ore dall'inizio delle registrazioni, se non hai niente da fare vieni tu, mi dai una mano a buttare giù delle basi, qualcosa, ma se ti viene in mente qualcun altro, insomma, gli vennero in mente altri e arrivò dopo un paio d'ore in studio lui, se stesso, Nino De Martino, con un bassista e un batterista. Praticamente il gioco era fatto, perché poi chiamando altri amici con altre collaborazioni, tipo Elio Danna, che era il sassofonista degli Osanna e poi degli Uno, che venne per i sax, Danilo Rustici, che era il chitarrista di Osanna, anche, che erano amici miei, in quel tempo ci frequentavamo, e così altri estemporaneamente, Terra di Benedetto a fare delle voci, insomma sulle basi che abbiamo fatto noi quattro, abbiamo aggiunto le sovincisioni degli altri e il disco è uscito comunque. Certo. Un disco al quale sono molto legato, proprio perché è nato in questo spirito di totale, praticamente imprevedibile, imprevista e persino improbabile improvvisazione, perché con loro non ci si era mai visti un attimo prima. Io certo avevo i miei pezzi in mente, ma li abbiamo sviluppati con un mood totalmente improvvisato in studio. Quello spirito si sente molto, secondo me, nel disco, nel bene e nel male, nel senso che ci sono delle sbavature, delle imprecisioni che sono classiche di chi non ha studiato i pezzi, di chi non li conosce, di chi li sta cercando mentre li suona. Però ci sono anche i pro, che sono i punti migliori di ogni improvvisazione. Quando le cose funzionano sono magiche, sono irripetibili, sono cariche di intensità, di pathos, di emozione, di feeling, di sentimento, di espressione. Una cosa che volevo solo ritornare un momento a Mino Di Martino: tu hai detto in un'intervista, nella mia infanzia lo vedevo passare con una Rolls Royce bianca. Sì, vero, vero, perché quando i Giganti vendevano un milione di copie con i loro 45 giri dal Festival di Sanremo giù di lì, e non erano gli unici a Milano, c'erano anche gli amici, erano tutti un po' più grandicelli di me. All'inizio li ho visti come, così, da giovinetto, come potevo guardare le pop star del momento. Poi mi è capitato di conoscerli anche professionalmente. Mino non era l'unico a girare con Rolls Royce, c'erano anche i ragazzi dell'Equipe 84, Maurizio Vandelli, certo, e gli altri che giravano con la Rolls Royce, addirittura Floreale, credo, quelli, vero, se non ricordo male, no? Ricordi benissimo, era proprio Floreale. Abbiamo scelto due pezzi da Essenza. Il primo pezzo, Sergio, qual è, ti ricordi? Il primo è Per te, la traccia numero 3. Ecco, adesso lo sentiamo, Claudio. È Per te, sì. Blu Radio Sera. È per te, fratello mio, che ti cuci il tuo vestito. Un ago senza filo, dritto giusto nelle vene. E il tuo andare, il tuo star fermo, il tuo prendere, il tuo dare. We'll be right back. senza senso verità. Che ti circolino al cuore, forza di senso in verità. Che ti circolino al cuore. E per te, fratello mio, il tuo senso è volontà. Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Maurizio, la definiamo un caleidoscopio di suoni. Direi proprio di sì, un pezzo splendido, Claudio, nonostante 1973, tu hai scritto nella presentazione, nel tuo sito, è senza prove, ma se sono senza prove, questo è un pezzo meraviglioso, pieno di effetti. Mino Di Martino è un bravo chitarrista, il pezzo praticamente va avanti su con massimo 4 accordi, per cui non è difficile, il ritmo c'è, le percussioni sono incalzanti, i suoni sono lancinanti, veramente dilanianti per scelta, super compressi, estremi, acidi, anche perché il tema trattato è molto sentito al momento, forza, senso e verità che ti circolano nel cuore, e poi è per te, fratello mio, che ti cuci il tuo vestito con un ago nelle vene, con un ago senza filo dritto giusto nelle vene. Io vedevo intorno un sacco di amici, ai tempi si chiamava, alcuni si chiamavano compagni, altri si chiamavano fratelli, e gli uni, negli uni, tra gli uni e tra gli altri ne ho visti parecchi pungere aghi nelle vene alla improbabile, distratta, in certi casi innocente, quasi sempre, anzi sempre azzardata esperienza dell'usare le droghe pesanti, perché è vero che di certo mi ascrivo tra le maggiori consapevoli, lucide responsabilità per avere sempre fatto decisa propaganda delle esperienze conoscitive anche attraverso sostanze psicotrope, quelle che ai tempi si chiamavano propriamente droghe leggere, che adesso le ultime scuole tendono ad accomunare con vestiti di pretese ricerche, evidenze scientifiche nei danni alle droghe pesanti, quando ci stanno milioni e migliaia di anni di storia dei popoli della Terra che stanno a provare la differenza fra l'uso consapevole di alcune sostanze psicotrope in ambito sacro, magico, sciamanico, terapeutico, spirituale, religioso, conoscitivo, e invece l'abbruttimento dello sballo ludico, chimico, da discoteca ai medi moderni, piuttosto che dell'abbruttimento fisico dilaniato e devastante delle droghe pesanti, della morfina, dell'eroina, che ai tempi usavano alcuni iniettarsi dritto nelle vene. Quindi era un gesto, un grido disperato, un accorato appello d'amore, però nel contesto di una situazione estremamente dura, delicata, perché poi i linguaggi di chi si buca non hanno alternative. Da una parte c'è il buco e come procurarsi la roba, dall'altra parte c'è tutto il resto, cioè nulla escluso dell'universo sul piatto della bilancia, per cui etica, morale, comportamenti, regole, nulla esiste più. Quando la soffazione, quella che storicamente molti hanno chiamato la scimmia, bussa dura sulla spalla perché sei in sbattimento, perché ti devi trovare una dose, lì può succedere di tutto. Ed ecco da dove nasce poi il degrado, l'etica che scompare, ogni tipo di prostituzione morale, culturale, fisica o addirittura di criminalità, che diventa dal loro punto di vista necessario, o diventava perlomeno, ma credo che sia ancora così purtroppo dove esistono queste casistiche, per procurarsi gli strumenti per non morire di dolore, di dolore fisico, che è quello che genera la crisi d'astinenza. Direi un'ultima parola conclusiva sul tema, poi se volete cambiamo argomento. Ho sempre pensato e continuo a pensare che le politiche sociali in materia di droghe, sostanzialmente e stupidamente e ignorantemente accomunate sotto quest'unica definizione, con pochi distinguo, con poca vera cultura di informazione che sappia spiegare che cosa sono le diverse sostanze, soprattutto sappia spiegare che cosa significano i dosaggi, perché se tu ti bevi 12 litri di vino puoi anche morire di colpo, capito? Ti può scoppiare lo stomaco prima che il cervello. Allora macroscopicamente dico che le dosi, se tu metti 12 bustine di tè in una tazza d'acqua bollente, ti fai un'esperienza a dir poco intossicata e intossicante. Le dosi sono fondamentali, e tutta la gente, molta della gente che è morta, ahimè tanta, è morta con quella che classicamente si chiama overdose, cioè una dose troppo grande, fatta per ignoranza, fatta per stupidità, fatta per leggerezza, ma soprattutto per ignoranza, perché non si è occupato di spiegare più di tanto quali sono i limiti e i confini, e se ci sono, ammesso che ci siano, gli utilizzi safe, sicuri delle sostanze. Questo è quello che dovrebbe offrire una politica sociale di assistenza a chi ha la disgrazia di trovarsi in questo tipo di assuefazioni, piuttosto che la repressione, piuttosto che quei simil carceri che sono a volte i centri di recupero, piuttosto che le droghe sintetiche come alternativa, che poi intossicano allo stesso modo e sono persino difficilmente disassimilabili negli effetti devastanti. A volte mi è capitato di sentire un ministro della Repubblica di qualche governo fa parlare per illustrare una tabella cosiddetta, così la chiamavano, sugli usi consentiti delle diverse sostanze, esprimersi con una tale superficialità, una tale evidente ignoranza, che denotava il non aver avuto a disposizione né relazioni competenti fatti da collaboratori consistenti, oppure se le ha avuto a disposizione non aveva trovato il tempo o il buon gusto di leggerle, ma proprio delle cose imbarazzanti, no? Che già alla fine degli anni 60, nei primi anni 70, c'era più informazione di quanto un ministro della Repubblica qualche governo fa riusciva a distribuire con la pretesa di capirci qualcosa. E quindi molti danni, poi i soliti discorsi ovviamente sul reprimere, invece che quindi alimentare i mercati, alimentare tutte le mafie che ci sono collegate, piuttosto che che nel caso di sostanze che negli usi dannosi potrebbero benissimo essere assimilate all'alcol, che invece guarda te o ai marchi del monopolio di Stato e quindi fa guadagnare tasse, no? Non si capisce onestamente dove vada a parare, con quali fini, come saltando di palo in frasca. Ci sono anni che c'è la guerra in Afghanistan, si sa che l'Afghanistan mantiene la sua guerriglia contro il mondo e alimenta quindi il terrorismo con i campi di papaveri, e tutte le potenze del mondo non sono riuscite in tutti questi anni di guerra a distruggere i campi di papaveri e quindi a distruggere la produzione degli oppiacei, guarda caso, no? Come mai? Dove vanno venduti? Su che mercati arrivano? Chi li manovra? Sono assurdità inverosimili che solo uno straccio di intelligenza potrebbe cogliere nelle loro tragiche dinamiche di verità, no? Ci sono interessi che vanno al di là di tutte le sbandierate idealità di facciata e che se la ridono ampiamente. Fine del discorso su è per te fratello mio, che era il 1973. Abbiamo scelto un altro pezzo da Essenza, mi pare che il titolo è, Sergio, ce l'hai davanti? Radice e semi. Radice e semi, che è un pezzo, sì, ascolta, molto bello. Prima di sentire Radice e semi, ricorderei gli amici in ascolto che abbiamo lanciato insieme anche un'opportunità di fare un programma collegato, un filino interattivo con Facebook, dove sono presente, ho un home page che è aperta a tutti, e pubblicando la notizia di questa trasmissione abbiamo chiesto agli amici che volessero eventualmente fare delle domande di farle lì, postarle lì sulla mia home page di Facebook, Claudio Rocchi. Ok. Ho visto che ce ne sono già diversi che arrivano, che magari più tardi andremo a investigare. E per quelli che stanno ascoltando e volessero fare delle domande, cercate Claudio Rocchi in Facebook e sotto il link di questa diretta c'è lo spazio per postare le domande. Allora torniamo alla musica e andiamo a sentire la canzone Radice e Semi. Blu Radio Sera. Credere in te stesso come regola di agire, la coscienza parla sempre chiara e forte, vuoi sentire. Hai da non aver paura per poter andare avanti, vince il debole sul forte, vince il tenero sul duro. Fa il male non vuol dirlo, ad accrescere dei segni. il bene può gridarlo, a radici da estirpare, hai da leggere la natura, le sue forme in luce, hai da vivere questa vita, puoi cercarne l'armonia. È da più di un minuto che ho il microfono aperto e non so dove entrare perché è un delitto tagliare una cosa del genere. La teniamo in sottofondo e continuiamo la nostra chiacchierata con Claudio Rocchi in Blu Radio Veneto all'interno di Blu Radio Sera. Maurizio. Sì, Claudio, una vera e propria sensation. Sì, come dicevo prima, si sente che è musica improvvisata. Certo, nelle parti dove c'è la strofa cantata c'è della struttura, ma quando si partono quelle improvvisazioni vocali che vanno, lì è tutto improvvisato, quindi a volte si colgono veramente, c'è uno che lancia uno spunto, gli altri li riprendono e se va bene ci sono dei raccordi dignitosi, altrimenti ci sono dei momenti traballanti, poi si riprende, però nell'insieme si sente che è musica, capito? Che c'è, che è viva proprio, per cui resiste nel tempo al di là delle forme, dei linguaggi, perché se adesso la gente si mette a suonare insieme non è che suona diversamente, capito? Certo, e a proposito di improvvisazioni citavi un'intervista sempre di Saint Just della sorella di Alan Sorrenti. Pronto, sì. Mi senti? Ti sento. Sì, citavi Saint Just all'epoca che del 73 c'era un disco molto bello di Saint Just della sorella di Alan Sorrenti, Jenny, sì. Sorrenti. Sì, sì, mi ricordo, Jenny era stata tra le prime fanciulle del panorama italiano ad avere una dignità ammirabile a certe ragazze della scena internazionale che facevano musica molto degnamente, per niente commerciale, completamente fuori dalle righe, insieme anche a degli amici musicisti. E la scena napoletana è stata in quegli anni anche vivissima, piena di talenti espressi, così, vari proprio, a parte Osanna, uno prima ancora Napoli Centrale, poi appunto Saint-Just, certo. Anche il primo Alan Sorrenti, certo. Non era commerciale, poi ha avuto una sbandata con i figli delle stelle. Molto grosso, con i figli delle stelle, mamma mia. Gli ha reso un pacco di soldi probabilmente ai tempi, però è anche è stato veramente una sorpresa per chi lo seguiva. E mi ricordo anche se voi siete d'accordo, ragazzi, dimmi. Darei una veloce scorsa, sì, vai, domande di Facebook. Intanto ringrazio velocemente Giancarlo Montuschi, Frank De Ruvo, Arianna Didoni che hanno lasciato delle cordialità, Nicola Calì anche, poi Adriano De Luna in particolare domanda se mi sono mai occupato di pittura. Sì, Adriano, ti saluto intanto. Mi sono occupato spesso di pittura così, giocando a fare l'artista che attraversa i vari linguaggi. Mi sono occupato di fotografia, di videografia negli ultimi anni, di arti digitali. Ai tempi la pittura, quando ero ragazzetto dipingevo spesso, avevo il vezzo di firmare, io che mi chiamo Claudio, levare il clau, tenere la parte finale Dio e mettere un apostrofo fra la D e la I e firmarmi molto immodestamente Dio, e con questa firmetta di nulla ricordo vinsi un concorso interstudentesco fra i licei della città di Milano con 5 pannelli di tecniche miste fra stampe e materiali plastici. Poi ancora nel tempo ho esplorato diverse tecniche, sempre con materiali misti, con collage di tessuti più acrilici, più oli, varie cose. Sì, mi sono occupato di pittura in certi modi. Poi ecco, ho avuto un'avventura ai confini della realtà commerciale, a metà strada tra la pittura e il business, quando per una serie di circostanze fortunate Fiorucci, lo stilista molti noto immagino, a un certo punto a metà degli anni 70 apriva un negozio importante nel centro della città di Milano, in Galleria Passerella, in Piazza San Babia, e doveva fare una vetrina e qualcuno aveva riferito di questi pazzoidi, io, la ragazza con cui stavo allora, irlandese, suo fratello, producevano le magliette volumagico cosiddette. Noi avevamo comprato 3.000 magliette di cotone da una partita rubacchiata chissà da chi, da un importatore molto improbabile, all'esercito turco, però di buon cotone, e noi comprando il super iride di buona memoria nelle vasche da bagno di casa tingevamo queste magliette per fare i fondi. Poi ritaglieremo delle mascherine di cartone con tempere a spruzzo e brillantini. Decoravamo queste magliette con uccelli in volo, lune crescenti, stelle, ma magliette molto colorate, molto sfumate, sembravano aerografate, psichedeliche, si chiamavano magliette volo magico. E abbiamo tappezzato la vetrina di Fiorucci per una settimana buona ai tempi dell'inaugurazione, vendendo poi alla fine diverse migliaia di magliette in un'esperienza proprio di artigianato pittorico tessile, diciamo. E poi ancora Claudio Sciarra mi domanda se gli anni passati in Sicilia, io ho vissuto complessivamente circa 3 anni in Sicilia, vicino a Palermo, a Punta Raisi, in località Terrasini, se l'esperienza in Sicilia era soltanto quella, il tempo di un laboratorio dove sperimentare tecniche, un laboratorio così fra artisti, oppure c'era in qualche misura l'idea di intervenire sul tessuto culturale della scena particolare siciliana. E guarda, Claudio Sciarra, essere lì un gruppo di artistoidi continentali come eravamo, fotografi, pittori, musicisti, che avevano insieme affittato per tutto l'anno il castelletto da un barone siciliano che non lo usava, molto bello, e che con una tecnica, che con un'idea che anticipava lo sharing di un luogo, di un affitto, con le multiproprietà, ecco, per cui quando i lavori di tutti lo consentivano, ognuno di noi passava lì 2 o 3 mesi, magari in 2 o 3 mesi c'erano 3 o 4 di noi, altri 2 o 3 mesi ce n'erano altri 4 o 5, il posto era grande, tutto ciò. Quindi questa colonia che si è installata per 3 anni a Terrasini, vicino a Palermo, di sicuro nel tessuto immediatamente, geograficamente, logisticamente adiacente ha lasciato un piccolo significante segno, perché sembravamo marziani, anzi probabilmente eravamo extraterrestri calati in quel territorio culturale, con perplessità, sospetti all'inizio, poi travolti benevolmente da fiducia, da stima, da condivisione. Dunque qualcosa si è fatto, di più strutturato assolutamente no. Elisabetta Renier chiede semplicemente, ma grandemente, un bacio. Siccome Elisabetta Renier ho la fortuna di conoscerla personalmente e non la vedo da forse 40 anni, e quando ci siamo visti le ultime volte, una quarantina d'anni fa, bacini e bacetti ce ne davamo volentieri. Elisabetta carissima, ti mando un enorme bacio, grazie al web. Poi Annalisa Piccolo mi chiede se conosco Osho, se ho mai fatto le meditazioni proprie dell'insegnamento di Bhagwan Sri Rajneesh per gli amici e discepoli Osho. È un discorso lunghissimo quello su Osho, che cercherò di sintetizzare. Ho sempre letto con interesse, ascoltato con interesse le parole trascritte, registrate e poi trascritte, di Bhagwan Sri Rajneesh, come si chiamava all'inizio, che era uno psicologo indiano che operava un sincretismo a fine anni 60 del tutto inedito, fra la psicologia junghiana, le tecniche reichiane, il Veda, il Vedanta, il Tantra, lo yoga, in un mischione, una bomba di mischione che non ha mancato di avere un successo deflagrante sui giovani discepoli occidentali, anche perché Rajneesh teorizzava, tra le altre cose, una sorta di vietato vietare, dove la sessualità era comunque accolta come strumento di liberazione, e quindi una delle caratteristiche, certo forse non la dominante, la più importante, ma di sicuro quella che ha contribuito abbondantemente al successo e alla curiosità agli inizi per le tecniche che appunto insegnava Osho, era questo fatto che nei suoi ashram, nei luoghi dove si riunivano i suoi discepoli, in qualche misura si praticasse una libertà applicata al sesso che non trovava uguali praticamente da nessun'altra parte del mondo in quegli anni. Al di là di questo, che è un modo molto riduttivo per parlare di Osho, che però è una caratteristica di quei tempi, lo dico perché è importante, perché altre scuole induiste che si sono diffuse nel mondo sulla via delle Indie cosiddette, che hanno travolto il pianeta trasversalmente, orizzontalmente, dall'Europa all'Asia, all'Africa, dove generazioni intere di giovani si sono messi per strada, ai tempi si poteva, verso l'India, proprio perché l'India esercitava un fascino non solo esotico, distante, ma anche soprattutto magico e anticipatore di meraviglie che non erano a disposizione nelle filosofie occidentali e nelle culture e nelle esperienze di applicazione della psicologia del profondo, per quanto se ne conoscesse in Occidente. L'India è stata importantissima per molti, anche per me. Io mi sono innamorato dell'India, facevo filosofia alla Statale a Milano e ben presto mi sono ritrovato a studiare, a leggere con ingordigia assoluta tutto quello che trovavo in circolazione sull'India, la filosofia del Vedanta, le Upanishad e quant'altro. E appunto tutta quest'altra scuola invece, che veniva dal brahmanesimo, diciamo, di destra indiana, il sesso l'ha sempre visto, invece, al contrario di Rajneesh, con i suoi insegnamenti, come una delle espressioni della potenzialità umana che a un certo punto di un discorso di conoscenza, come in modo non troppo diverso poi dal cattolicesimo e da altre filosofie occidentali applicate ai mondi cosiddetti della religiosità spirituale, dove il sesso a un certo punto sarebbe stato meglio cominciare a pensare di metterlo da parte, perché chiede troppo, perché impegna troppo, perché la vita è così dominata dal drive sessuale, che per molti è dominante, tralascio banalissimi, volgarissimi proverbi e modi di dire su cosa sia importante, cosa tiri di più nella vita, per cui levando di torno il sesso, i suoi derivati e le sue declinazioni, si libererebbe un tale spazio interiore da dedicare invece in senso proprio taoista. Il vuoto è utile perché può essere riempito, quindi fare spazio interiormente significa creare i presupposti per farsi inondare da altro. Questo farsi inondare da altro nelle scuole filosofiche, pratiche, esperienziali delle filosofie induiste, al contrario di Rajneesha, vede il sesso come un qualcosa da mettere da parte a un certo punto, l'esperienza della rinuncia al sesso, della castità consapevole sulla via della realizzazione spirituale, appunto per metà delle scuole indiane, non quelle tantriche o shivaite. Quindi vedi che si apriva un panorama diviso nettamente in due, come classico di questo mondo dominato dal dualismo, no? Da una parte il sesso libero come vettore verso la conoscenza, dall'altra parte il sesso da mettere da parte come ostacolo verso la conoscenza, no? Ecco, quindi Annalisa, ho fatto alcune esperienze di meditazione dinamica che del resto poi assomigliano molto ai kirtan, alla danza libera e statica. Osho faceva così, andava in giro all'inizio nei primi anni 60 con i primi discepoli occidentali che gli avevano attrezzato un camion con un generatore, dei grandi altoparlanti, andava in giro, si fermava nei villaggi, sparavano musica a tutto volume, lui parlava, poi faceva partire la musica, diceva a tutti di danzare liberamente fino a un segnale di stop. Il segnale di stop arrivava magari dopo un'ora e mezza di danza libera, sfrenata, dove una danza è liberatrice, disinibisce, alleggerisce, e ha mille caratteristiche utili e positive. Al segnale di stop tutti erano invitati a lasciarsi andare e a crollare per terra. Quello che si poteva osservare dopo un'ora e mezza di danza, dico impropriamente, però più o meno che all'inizio insegnava Rajneesha in giro per l'India su un camion, come esperienza diretta, come tecnica di meditazione dinamica, no? Questa liberarsi nella danza e poi fermarsi di colpo e osservare sull'inerzia di 45 minuti, un'ora e mezza di danza, che cosa potesse mai passare per la mente, per la coscienza, per la visione, per la sensibilità, per il sentire di una persona che era da un certo punto di vista alleggerita, da un altro punto di vista stremata, e quindi in una condizione di soglia che si sa favorisce la visione. Questa era la meditazione dinamica dell'inizio di Osho, e anche nelle tecniche che io per 15 anni ho praticato l'induismo per una scuola completamente diversa, il kirtan, la danza, è sempre stato un elemento fondamentale. E per adesso mi fermerei qui, se altri hanno da fare domande ancora possono postarle sulla mia bacheca in Facebook. E amici, voi lì... Mi senti? Sì? Pronto? Sì. Andiamo sì. Avanti con il prossimo disco, Claudio, Il miele dei pianeti, le isole e le api del 74, subito un anno dopo, Claudio, come mai così velocemente? Ma perché i contratti prevedevano un disco all'anno e l'ispirazione in qualche misura doveva adeguarsi, era neanche troppo difficile per la verità, però è anche vero che forse qualche anno di pausa fra un disco e l'altro sarebbe anche stato forse utile, nel senso, ad esempio, questo disco in particolare, Il miele dei pianeti, le isole e le api, è un disco fatto con il nucleo degli Actuala, esattamente, di Maioli, che era un altro gruppo storico che io dico sempre per certo, sappiatelo, ha anticipato, importato, inventato in Italia, perché prima di loro nessuno mai l'aveva fatto, quella che poi è diventata la world music, grazie soprattutto all'estero, al talento e all'intelligenza esplorativa del leader Walter Maioli, che era un musicista di blues, un armonicista. Mi ricordo che a un certo punto nella vita lavorava come commesso in un negozio di strumenti musicali a Milano, la ricordi, in centro, e poi ha sviluppato amore infinito per il collezionare, lo studiare strumenti a fiato soprattutto di tutte le tradizioni. Ha cominciato con quella nordafricana facendo viaggi in Nord Africa, in vari stati, poi ovviamente sulla via dell'est verso l'India, Afghanistan, Pakistan, e via per quelle rotte, raccogliendo strumenti a fiato, a percussioni, e quindi riportando in Italia gli strumenti e le tecniche che nel frattempo aveva acquisito, condividendole con altri amici. Questo era il nucleo di Actuala, che credo nel 73, proprio 72, se non ricordo, pubblicarono un paio di dischi veramente straordinari per l'etichetta di Pino Massara, che si chiamava Bla Bla, che era anche la prima etichetta di, che vide impegnato nella linea non canzonettara pop Franco Battiato come cantante di un gruppo che si chiamava Osage Tribe, no? Pino Massara aveva la Bla Bla Records, e il disco gli Actuala, La Terra, ad esempio, se ci sono collezionisti lo possono testimoniare, con una straordinaria copertina di un pianeta Terra visto nell'ottica, nello stile di una stampa medievale. La Terra era un disco straordinario di musica world, di musica etnica, di musica fatta da italiani con strumenti del mondo, nei modi del mondo. Io mi sono molto innamorato di Walter, così musicalmente, professionalmente e umanamente, in quegli anni, quindi frequentavo il loro gruppo, abbiamo lavorato spesso insieme. Tra l'altro Actuala era collegato anche con l'esperienza interessantissima di Osvaldo Salvi, che è stato poi il fondatore di una grande scuola di mimo a Milano che si chiamano quelli di Grog, e insieme si facevano spettacoli dove il mimo, la danza animata, la musica, l'idea della famiglia musicale un po' all'Incredible String Band, con quel tipo di immaginario lì, sul palco c'erano 4-5 musicisti maschi, 2-3 ragazze che suonavano, Osvaldo e altri che facevano il mimo, danzavano, contrappuntavano la musica, spesso largamente improvvisata, in una sorta di carrozzone proprio straordinariamente circense applicato alla musica, che è stata un'esperienza importante. Da quell'esperienza ho chiesto agli amici Actuala di accompagnarmi in studio per questo disco, Il Nere dei Pianeti, Le Isole, Le Api, che poi è un titolo tratto da due pezzi, uno Il Nere dei Pianeti e l'altro, no, uno Le Isole e i Pianeti e l'altro Il Nere delle Api, esatto. Che poi è diventato appunto Il Nere dei Pianeti, Le Isole, sì, buonanotte, Il Nere delle Api, Le Isole e i Pianeti. Perfetto. E quindi è un lavoro fatto con loro, principalmente. Adesso non so che pezzi avete selezionato voi. Cioè, io vorrei selezionare il pezzo più famoso, La Rana, di quel disco. Ah, La Rana, bravo. Sentiamo La Rana. Questo è un mestiere nella vita, io voglio fare l'uomo. Andiamo a sentire, allora, La Rana. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Mestiere nella vita, io voglio fare l'uomo e lo voglio far bene, ma tu che mi hai insegnato, mi hai dato fucili e pistole per giocare alla guerra e non mi hai detto niente del gioco di lavorare la terra. Sono nato in città da mio padre, attraverso mia madre. Niente frutta sugli alberi intorno, niente boschi e animali. Ho impiegato 20 anni di vita per riuscire a vedere più chiaro, oltre il fumo di chi mi ha insegnato le illusioni inventate a realtà. Ed adesso che riesco a sentire e a vedere da solo, sono solo un ragazzo che cresce a imparare a essere uomo. realizzando in me stesso che ogni gesto vuole mille aspetti e tutto quello che devi sentire. Se raccogli la festa del sole, tu sei il sole e la festa è per te. Se tu soffri la pena del mondo, quel che vedi è la pena che hai tu. Cosa pensi che sappia una rana, nata e morta tra stagni e paludi, e gli spazi profondi del mare, e le ali dei coralli. Cosa pensi che riesci a vedere, al di là della vita che tocchi, nelle solite stanze in cui giochi, l'abitudine ai gesti già noti. Ed adesso che riesco a vedere e a sentire da solo, sono solo una ragazza che cresce a imparare da solo. Allora Maurizio, ci fermiamo un attimo, lasciamo attendere Claudio un attimino in linea e torniamo tra qualche istante. Sono le 22 e 0 minuti. Cercare segni di speranza per l'Italia di oggi. Con questo impegnativo programma, la Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Padova aprirà sabato 9 ottobre il nuovo anno formativo. La proposta è rivolta a persone impegnate in ambito sociale ed ecclesiale ed anche ad amministratori e politici. Per i giovani è un percorso che aiuta ad iniziare con consapevolezza l'impegno nella società e nella politica da cittadini responsabili. Il corso inizierà il 9 ottobre alle 15.30 presso la Facoltà Teologica del Triveneto in via del Seminario 29. Per informazioni telefonare allo 049 877 1705. Email pastoralesociale@diocesipadova.it. IOF San Giuseppe, patrono della buona morte. Un aiuto discreto e professionale nelle circostanze luttuose. Professionalità, correttezza e trasparenza al vostro servizio 24 ore su 24. IOF San Giuseppe, in via Castellana 58H, Venezia. 041 97 79 97. Con il patrocinio di Caritas Veneziana e Cooperativa MACE. Radio Sera. Blu Radio Sera. Continua questa seconda, chiamiamola puntata, insieme a Claudio Rocchi all'interno di Blu Radio Sera in Blu Radio Veneto. Maurizio. Rocchi, Claudio, voliamo a Rocchi del 75, Claudio. Sì, certo. Vogliamo a Rocchi del 75, però prima lasciami volare in Brasile perché vogliamo in Brasile. Sì, perché è con grande piacere che saluto un'amica che ci ascolta dal Brasile, in rete, Malu Moraes, che ci ascolta da un Brasil, quindi malumorato, grazie. Siamo intrigati, essendo noi qui sul continente, nel continente europeo. E poi, prima di arrivare, ci arrivo, è velocissimo, però fammi rispondere a qualche altro che fa domande. Tipo Adriano, poi mi chiede i miraggi in India, poi che altro? C'era un altro? Ah sì, minatore interiore mi chiede se penso che le tecniche, le varie tecniche made in India possano in qualche misura ancora uscire, essere utili ai giovani nel presente per uscire da quello che lui definisce l'oscurantismo del presente. Quindi due domande legate in qualche misura all'India. Sinteticamente, se ci riesco, se ne sono ancora capace, come dicevo prima, l'India è stata ed è e sarà un patrimonio di conoscenze sterminate, oltre che un paese dove se ci vai a vivere o anche se lo attraversi per qualche momento è comunque uno schiaffo interiore fortissimo per chiunque, un'esperienza che non può passare inosservata, perché come lì, come da altre parti purtroppo nel pianeta, ma lì anche molto decisamente, chi viene dalle nostre esperienze occidentali, che per quanto possano essere difficili socialmente, economicamente, ci si possa trovare in vari tipi di difficoltà, mai si può immaginare cosa sia l'escursione infinita tra la miseria più assoluta di gente che vive e muore per la strada, possedendo nulla, giusti corpi, e la ricchezza più sfrenata che passa lì di fianco. Ecco, quando la morte non è nascosta, come si usa a fare in Occidente spesso perché fa paura a tutti, ma è sotto gli occhi, e così la malattia, che non è relegata negli ospedali dove è difficile, dove adesso cominciamo a vedere qualche per le nostre strade, qualche sfortunato essere umano che dorme sui cartoni piuttosto che muore al freddo d'inverno, piuttosto che è successo anche l'inverno scorso, no? Ma sono secoli che non si vedevano più queste cose in Occidente, ecco, invece lì si vedono continuamente, quindi è un'esperienza molto forte. Di fianco a questo, il popolo indiano ha sviluppato nei millenni, perché di millenni si tratta, conoscenze sofisticatissime dal punto di vista della speculazione intellettuale in ogni campo dello scibile, al punto di avere messo insieme una complessa letteratura fatta di migliaia e migliaia di testi che nell'insieme è chiamata Veda. Veda in sanscrito significa conoscenza, non è un'enciclopedia piuttosto che una raccolta che si intitola I Veda. Veda è un complesso di opere vastissime che spazia in ogni campo dell'esperienza umana, dalla botanica alla cucina, alla gastronomia, all'astrofisica, all'astronautica, alla fisica, alla medicina, al giardinaggio, in qualunque campo ci sono dei testi che riportano conoscenze che sono tramandate da esperienze millenarie e secondo alcuni addirittura a un certo punto si innesterebbero direttamente con input extraterrestri calati sul pianeta da quelle parti come da altre parti del pianeta, ad esempio gli altopiani del Centro America, le culture maya, inca, oppure calate in altri tempi nell'area della mesopotamica con innesti che si favoleggiano da altre stelle, da altre culture. Tra l'altro, non so se avete visto oggi sui giornali la notizia che le Nazioni Unite hanno istituito un'ambasciata e un ufficio responsabile nominando una donna asiatica astrofisica per contattare gli alieni quando dovessero presentarsi, dicendo che sono stati negli ultimi anni messe chiariti un innumerevole numero di stelle intorno alle quali ruotano sistemi, orbitano sistemi planetari del tutto assimilabili al nostro, e che quindi non è improbabile che prima ci sia necessità, e se dovesse arrivare finalmente degli alieni, cioè chi è che li contatta a nome della Terra, no? Diciamo essere pronti e preparati, e che arrivi le Nazioni Unite a istituire questo ufficio, così sgamando un po' come vanno le cose sul pianeta, potrebbe anche significare che già sono stati abbondanti segnali che si comincia a segnalare all'opinione pubblica. Tornando all'India, sì, in sostanza, certo che sì, non l'India come luogo fisico, l'India come luogo culturale, come luogo di esperienze che hanno altezze e profondità veramente irripetute e probabilmente irripetibili su questo pianeta. Poi ancora, ad esempio, Tiziana Flavioni mi ricorda quando facevo radio a fine, nella prima metà degli anni 70, Radio Rai al pomeriggio insieme ad altri amici come Giacomo Massarini, Casconi, in una trasmissione, un ciclo di trasmissione che si chiamava Per Due Giovani prima e poi Popoff. Io, dice lei, giuro che non lo ricordo, Tiziana, citavo spesso una frase che mi esce, che suona più o meno come: non c'è nulla su cui ci si possa fermare, bisogna sempre andare avanti, se la penso ancora così. Beh, mi sembra una tale ovvia necessità che soltanto capriccio potrebbe darci l'illusione di poterci esimere dalla necessità di andare avanti, anche perché lo vedi da te, lo vediamo tutti, le circostanze si presentano a volte inaspettatamente, a volte a sorpresa, ci troviamo a poter, come unica libertà, esercitare soltanto la libertà di scegliere come confrontare eventi che non siamo in grado di governare o di determinare, ma che siamo soltanto in grado di, a seconda delle declinazioni, pessimisticamente subire, positivamente invece confrontare in modo utile, trasformandole, ottimizzandole perché ci appaiano utili e perché siano effettivamente utili e progressive per lo sviluppo nostro e del potenziale umano. A voi in studio, andiamo un po' di musica, dai. Sì, sentiamo allora Rocky. Questo album, Claudio, tu hai scritto dal 70, l'estate del 74, dischi e concerti quasi senza interruzione. Sì. Ah sì, l'album Rocky. Esatto, del 75. Ecco, forse, forse l'ultimo o il penultimo con l'Ariston, forse l'ultimo mi pare. Il penultimo. L'ultimo è stato quello successivo, Suoni di Frontiera. Rocky è un momento così di svolta, perché cominciavano a venirmi sempre dopo una lunghissima stagione di concerti, dove in qualche misura onestamente cominciavo a sentirmi un attimo in difficoltà, come altri amici, colleghi musicisti probabilmente conoscono l'esperienza, nel replicare continuamente per soddisfare l'aspettativa del pubblico sempre le stesse canzoni che giustamente il pubblico vuole ascoltare nelle versioni che conosce, nel modo che conosce, che ha amato, che ha ascoltato, a volte addirittura memorizzato, mentre invece dal punto di vista dell'artista cosiddetto, del performer sul palco, la necessità a un certo punto si presenta proprio di rinnovare quei pezzi, riviverli in un altro modo, cambiare un po' gli arrangiamenti, rivestirli di quello che la vita nel frattempo ha fatto di noi, che non siamo più quelli di 5-6 anni fa quando abbiamo scritto quelle canzoni, ma siamo altri attraversati da parecchi fiumi di esperienza. Per cui dopo una stagione di concerti infiniti, proprio a riempirmi l'anima completamente, ho cominciato a maturare una certa difficoltà verso il rifare, il reinterpretare me stesso secondo le aspettative degli amici, del pubblico, e anche una certa stanchezza verso quella che chiamo la forma canzone. Infatti Rocky è un disco dove ho iniziato in casa, registrando prima delle tecnologie digitali in modo assolutamente analogico, ma comunque completamente da laboratorio di fonologia, come si usava allora, cioè tagliando, incollando nastri magnetici, facendo ogni sorta di diavoleria con le tecnologie a disposizione, che erano non troppe, cioè si lavorava con i nastri magnetici e quindi i montaggi poi alla fine erano proprio fisicamente tagli e incolla, no? E a fare della musica concreta, della musica elettronica, a portare il suono della vita nella declinazione dell'esperienza musicale, anche perché poi di fatto nella mia sensibilità e in quella di molti altri anche è così. A volte tu vai in giro per la strada e ti accorgi che ascolti contemporaneamente 10-15 cose, stimoli sonori diversi che si miscelano tutti, e poi la tua attenzione magari va su uno piuttosto che su un altro, come se sei al ristorante. Quante volte io mi sono divertito al ristorante ad ascoltare il piano d'ascolto generale, magari sei in un tavolo in mezzo ad altri tavoli e si sente un rumore di fondo diffuso che è il chiacchierare di tutti, poi se tu sposti l'attenzione su un discorso piuttosto che su un altro, vedi che si mette a fuoco e sei in grado di isolarlo, come portarlo in primo piano e seguire una conversazione piuttosto che un'altra, e poi spostarsi da un altro, un altro, un altro, per dire che i piani d'ascolto, i suoni, i rumori, sembrano tutti insieme, in realtà restano tutti distinti ed è solo la nostra attenzione che privilegia la comprensione l'espressione di uno stimolo musicale sonoro piuttosto che di un altro. Ecco, nell'avvicinare questi discorsi, nell'avvicinare i suoni proprio come materia fisica in senso la fisica, cioè frequenze di oscillazione nel tempo, il suono come onda, vibrazione musicale, e anche nel cominciare a sperimentare, a studiare gli effetti che direttamente i suoni provocano o possono provocare sugli organi, sperimenti tutti, se vai di fianco a un enorme amplificatore con un grande basso, sentire che ti risuona lo stomaco, ad esempio, perché certe note basse ad alta potenza e a bassa frequenza arrivano direttamente allo stomaco. Certo. Altre frequenze arrivano direttamente agli altri organi, perché la musica induce anche degli stati, comunque tutti sanno che delle mucche che fanno più latte se ascoltano musica, delle tecniche di rilassamento che sono indotte anche dall'ascolto di suoni o di musica, insomma tutta questo mondo che allora mi piaceva investigare in Rocky trova le prime esperienze. Adesso non so di cosa disponiate voi. Dunque abbiamo scelto il pezzo che tu hai scelto in visioni prima. Ciota Sabalma. Esatto, proprio quello l'hai scelto te e l'hai selezionato te. Quindi. Ecco, bravo, allora ci sta perfettamente in questo discorso, perché non è una canzone, è un ritornello di una canzonetta indiana popolare, pop, ripresa con un saranghi, che è uno strumento indiano, che è una specie di violino che si suona verticalmente seduti per terra, messa insieme a delle frasi sussurrate, messa insieme a qualche leggerissima tastiera, in un mondo sonoro multistrato che chiede soltanto alla vostra attenzione di decidere dove posizionarsi. Ok, la ascoltiamo. Blu Radio Sera. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ultimi 10 minuti, poco più, insieme a Claudio Rocchi su Blu Radio Veneto. Maurizio. Claudio, facciamo una terza puntata allora. Per forza, abbiamo ancora un po' di dischi da far sentire tuoi. Sì, adesso voi siete dei pazzi furiosi, coraggiosi, e vedo alto, perché adesso io non vi sto ascoltando né in rete né tantomeno in FM, ma direttamente al telefono, e quindi l'ascolto non è granché. Ma immagino che un pezzo come quello che avete trasmesso adesso esca da ogni schema classico di radiofonicità classicamente intesa. Sì, di sera si può fare, di sera si può fare. Di sera si può fare, sì, no? Sì, infatti, sì. Appunto, io non ricordavo nemmeno. Meno, quello che si intrasente ogni tanto e dice un po' stranamente pronunciato, ciò che arriva non lo sai, ma se lo dici è vero. In realtà la frase sarebbe ciò che arriva non lo sai, ma se lo dici è vero, e ha questo andamento così surreale, onirico, perché in realtà io ho registrato questa frase, ciò che arriva non lo sai, ma se lo dici è vero, poi ho girato il nastro al contrario, ho studiato il suono al contrario di quella frase e poi ho registrato da dritto i suoni al contrario per poi rigirare il nastro e farlo tornare dritto. Ah. Un po' macchinoso, ma per darti l'idea di cosa significava fare musica sperimentale a quei tempi. Beh, sì. E difatti esce questa frase semi biascicata, incomprensibile. Dai. Tu hai detto una cosa prima di partire con questo disco, con questo pezzo da Rocky, che eri arrivato non a odiare i pezzi, ma eri stanchissimo di farli. E mi ricordo in un'intervista a De Gregori hai detto che Alice ha cominciato a odiarlo, a odiare la canzone Alice. Beh, sì, assolutamente. Sì, sì, è così, ma poi adesso anche per metterci in buona compagnia, me e De Gregori, posso testimoniarti di aver visto più di una volta concerti dal vivo dell'ottimissimo maestro Bob Dylan, che stravolge i suoi pezzi storici in maniere quasi furiosamente, in modo quasi indisponente, no, per chi conosce nello splendore delle scritture originali. Però capisco perfettamente la necessità di farlo. Ad esempio in Facebook, ricordo che come sempre noi interfacciamo la diretta con la mia bacheca di Facebook, dove gli amici possono postare delle domande. Carlo Giuffrida domanda: ma la musica è sacra? È anche il titolo di una mia canzone del 1900, di qualche ventennio più avanti. Quanto ci può salvare la musica ancora? Ecco, colgo lo spunto da questa domanda di Claudio Giuffrida per dire, perché suppongo poi ascolteremo un altro pezzo da Suoni di Frontiera. Giusto? Esatto, esattamente. Terminiamo questa seconda transe con Suoni di Frontiera, poi faremo una terza puntata fra un po' di tempo. Suoni di Frontiera è un disco del 1975 o 6, adesso non ricordo più, che assolutamente, dove quella fase di crescente fastidio per la forma canzone si è radicalizzata nel rifiuto della forma canzone. Ho preparato un disco, Suoni di Frontiera, appunto, dove ci sono credo 11, 12 o 13 brevi takes assolutamente rigorosamente elettroniche, senza nulla, senza una parola di testo, senza una melodia cantata. Musica fatta appunto con gli strumenti a disposizione allora, sintetizzatori, VCS3, Moog, nastri, filtri, echi, tutte queste cose. Ricordo una fra tutte, un'esperienza straordinaria, quando esisteva ancora lo storico Partito Comunista di buona memoria e le grandissime feste che usavano mettere insieme, chiamate feste dell'unità, che c'erano feste unità nazionali, poi c'erano provinciali, poi comunali, fino a quelle di quartiere. A una festa nazionale a Reggio Emilia, proprio di quell'anno quando era uscito Suoni di Frontiera, mi sono trovato davanti a una platea sterminata di qualche, probabilmente 30.000 persone, così, proprio il festival nazionale sul palco principale, al tramonto, a partire con un pezzo di Suoni di Frontiera, per una performance dove non ho fatto neanche mezza canzone, scontentando alcuni ma intrigando moltissimi altri, anche perché la potentissima amplificazione nel ripetere a questa festa dell'unità in modo del tutto sorprendente per i più, se non per tutti, le note di quel pezzo che io ho chiamato La Forza, produceva un effetto che io guardavo la gente mentre andavano i nastri di questo pezzo, sul quale poi dal vivo rimettevo altri loop dal vivo, dei sintetizzatori, delle cose, veramente magico. È stata un'esperienza fantastica, perché la musica elettronica, quando è propriamente amplificata, quando è in uno spazio aperto, provoca veramente dei massaggi agli organi interni, agli stati di coscienza considerevoli. È sempre stata mia convinzione e ho questa esperienza a testimoniarlo. Cosa volete suonare? Suoni di frontiera, scusami, quando lo suonavi dal vivo eri sopportato da qualcuno o no? No, ero sostenuto da un paio di Revox con delle basi sui quali rimettevo dal vivo degli altri suoni, che alcuni venivano da registrati da altri nastri e da altre cassette che miscelavo, che usavo come un DJ, sì, come i DJ poi avrebbero fatto più tardi esatto. Avevo dei materiali sonori che missavo su queste basi registrate e poi avevo anche i sintetizzatori che rimettevano suoni primo. Quindi era un'esperienza, me la gestivo da solo, però con molte sorgenti sonore. Perfetto. Ti ricordi che sensazione hanno avuto i tuoi manager della Aristo quando hanno sentito questo disco? Hanno seriamente pensato, credo che abbiano deciso di chiudere il contratto, anche perché io sono passato dalle 120.000 copie in prima edizione di Viaggio, sì, capito, e alle 170, che per i tempi erano tantissime, cioè se andavo in classifica vendevo 1 milione di dischi, certo, però insomma 170-200.000 copie non erano robetta, no? Dei dischi di canzoni, dei primi dischi, in una ingloriosa de-escalation commerciale fuori di frontiere con 12.000 copie, no? Con la disperazione dei discografici che speravano che rientrassi in me a fare canzoni. Invece ho smesso con loro e appena ho cambiato casa discografica ho rifatto subito un altro disco di canzoni. Esattamente. Ok, sentiamo allora un pezzo da Suoni di Frontiera. Sergio, che pezzo abbiamo scelto? Che hai scelto te sempre da compilation, Claudio. O Lira hai scelto. O Lira, esatto. Va bene. Ok. Okay. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo praticamente in chiusura ormai, Maurizio. Sì, siamo in chiusura di questa seconda puntata, Claudio. Faremo una terza puntata perché non si può dimenticare A Fuoco per la Cramps, un disco meraviglioso, secondo me. Decisamente. Del resto, insomma, ho fatto tanti dischi, che dovevo fare. No, è bello così. Decisamente. Senti, comunque, adesso, prima di lasciarvi chiudere, volete, fatemi cortesemente ringraziare ancora tutti gli amici che sono intervenuti su Facebook, anche quelli che non ho ancora citato, tipo Alessandro Scrocco in primis, un abbraccio Alessandro. Poi Giancarlo Montuschi mi faceva una domanda interessante, se nella cultura indiana e nelle esperienze tra i Veda ci sono dei testi che illustrino corrispondenze precise fra note e colori. Sì, certamente, come ogni esperienza psichedelica che si rispetti può confermare che la percezione dei sensi, i sensi si possono mischiare e invertire, nel senso che si possono ascoltare i colori, si possono vedere i suoni, e tutto ciò non era sfuggito agli ottimi ricercatori delle scienze. Questo è Giancarlo Montuschi. Poi saluto ancora e ringrazio Orlando Furioso, Cermondi, Valerio Pasquini, mi scuso con quelli che ho dimenticato. Grazie a voi lì che siete in studio e ditemi un po'. E ci mettiamo d'accordo come abbiamo fatto per questa puntata, scegliamo un altro martedì e andiamo avanti fino alla fine musicalmente. Perfetto. Della tua discografia. Quelli già pubblicati, e poi a quanto sembra io ho letto che c'è un disco pronto o no? È vero? Ho un disco pronto per quello che mi riguarda, nel senso che io ho già scritto, registrato e, come si dice in gergo, preprodotto tutto. Ora tutto verrà ottimizzato e rimissato, tutto fatto nel mio laboratorio musicale. Sì, un disco di canzoni rock elettroniche. Bene, bene. Che chiamerò, credo, In Alto, che uscirà nel 2011. Sono molto intrigato e super soddisfatto di queste nuove canzoni che sono riconciliato con la forma canzone, con le chitarre elettriche, le chitarre acustiche, le voci e le parole. Bene, una cosa che mi intriga e ti devo chiedere, fai ancora radio? Sì? Sì, se ne ho opportunità, con grande piacere, amo moltissimo fare radio. In questo periodo, in questo momento, non sto facendo nessuna radio perché mi sono concentrato da mesi sul disco, nella scrittura e nella produzione del disco. Spero di tornare a farla presto. Ho fatto radio anche Sardegna, dove vivo, con la RAI negli ultimi 2 anni, programmi radiofonici per Radio RAI Sardegna, e potete darmi un programma Blu Radio Veneto? magari. Magari, cioè, può fare di tutto, ora con web è molto facile. Il famoso spazio che aveva per voi giovani, ecco. Ti ricordi? Infatti ormai si può registrare in una città e spedire l'MP3 in bianco. Sì, può sì, fare sì. Di tutto. Sì, ma sì, i vostri sì. Ascoltatori che dicono di questi deliri delle nostre chiacchierate? No, sono incuriositissimi. Molto, molto interessati, Claudio, sì, assolutamente. Bene, allora un abbraccio come mi piace fare, a me piace firmare sempre AGS, che in inglese significa abbracci. Abbracci dappertutto, via internet, via web, amiche, amici, grazie a tutti per l'attenzione, grazie a voi ottimi e ospiti. Ricambiamo Claudio. Grazie Claudio. Ciao, buona a presto. Prossima. Ciao, grazie. Ciao. Maurizio era finito, il nostro caro amico. Claudio Rocchi, 22:31, lasciamo spazio a Renato Ferro con heavy metal e hard rock sulle nostre frequenze e noi ci sentiamo, domani. Cosa, domani chi c'è, suona la piccola domani? Bottega Baltasar. Ah, però. Con un disco meraviglioso, sì. Che è il loro quarto album, un disco, ripeto, meraviglioso, forse il migliore della loro discografia, a mio parere. In diretta nei nostri studi. In diretta, studi. Chiaramente, dalle ore 22. Dalle 22 alle 24, Rock Wave Live. Martedì prossimo, martedì ti ricordi prossimo chi? Avremo Flavio, che ritorna. C'è il ritorno di Flavio. Con un live, con Davide Ferrario, che era un musicista degli FC, un musicista di Cittadella che ha suonato anche con Battiato, e proporrà il suo album da solista. Buono, buono. Io torno allora tra un paio di martedì. Esattamente. Martedì prossimo sarete con il buon Flavio e ovviamente con Maurizio Calzavara. Ci salutiamo e vi lasciamo con Renato Ferro su Blu Radio Veneto. Ciao alla prossima. Ciao alla prossima.